Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da Roma arriveranno oltre 4 milioni di euro per far fronte alle emergenze più pressanti del settore idrico. Intanto Udine chiude tutte le fontane pubbliche. Giornata difficile ieri a Monfalcone nel suo Interland, causa ripetuti guasti alle linee della distribuzione dell'energia elettrica. Un tesoretto di oltre 700 milioni ereditato dal buon andamento economico sostanzia l'assestamento di bilancio per la regione, quasi il doppio dello scorso anno. Passo in avanti per il nuovo assetto dell'autostrada Alto Adriatico. L'Assemblea ha approvato l'aggiornamento dell'accordo di cooperazione e il piano economico. Vertenza Flex. Dopo l'incontro al MISE si prospetta una possibile collaborazione con il colosso finlandese Nokia. Slitta di 2 anni il finanziamento regionale per il Parco del Mare di Trieste su richiesta della Camera di Commercio in attesa di una congiuntura economico-finanziaria migliore. Trovare un posto negli asili nido del Pordenonese è sempre più difficile, in crescita le domande, mentre la disponibilità non cresce di pari passo. Secondo il report sull'ambiente urbano del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Trieste, con qualche criticità, è città sostenibile e vivibile. Alle 7:19 minuti e 26 secondi di mercoledì 6 luglio, un cordiale buongiorno da Ludovico Fontana e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto la pagina del tempo, queste le temperature registrate alle 6. Trieste 24 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi. Pordenone e Udine 19 gradi e mezzo, Gorizia 21 gradi. Piancavallo e Tarvisio 11, Sapado 8 gradi e mezzo, Forni di Sopra 14 gradi, Tolmezzo 18. In quota sul Lussario e sullo Zoncolan 11 gradi e mezzo. Tornando sulla costa, Grado e Lignano 23 gradi e 5 decimi con temperatura del mare di 28. Passiamo alle previsioni. Residua nuvolosità di primo mattino su pianura e costa, sereno in giornata. Sulla zona montana in genere poco nuvoloso per cumuli pomeridiani che localmente potrebbero dar luogo a qualche rovescio, specie verso il Cadore. Venti a regime di brezza. In tarda serata possibile aumento della nuvolosità. Sulla regione ieri pomeriggio sono arrivate correnti settentrionali con aria fresca in quota che ha accentuato l'instabilità pomeridiana. Dal primo pomeriggio, come informa la Protezione Civile Regionale, alcuni temporali hanno cominciato ad interessare prima le valli del Natisone e l'Isontino, poi la Carnia e le Prealpi. Successivamente i temporali si sono spostati sulla pianura udinese goriziana, dove hanno trovato un'atmosfera calda ed umida che ha contribuito alla loro intensificazione. I temporali localmente hanno provocato piogge intense e raffiche di vento forte, sia in pianura che sulla costa. I valori più significativi delle precipitazioni in un'ora si sono verificati a Tarcento 52 mm, Zompitta 68,8, Savorgnano 49,4, Nimis 79 mm in 3 ore. Le raffiche di vento hanno toccato i 65 km orari con una punta a Talmassons di 86 km orari, segnalate anche numerose grandinate. Sono stati segnalati alberi schiantati nei comuni di Santa Maria alla Longa, Lestizza, Cormons, San Vito al Torre, Aiello del Friuli, Romans, Disonzo, Reana del Royale, Povoletto e Tarcento. La nostra regione è tra le 5 italiane cui è stato riconosciuto lo stato di emergenza che, fra l'altro, farà arrivare da Roma più di 4 milioni di euro per interventi d'urgenza nel settore idrico. E mentre Udine chiude tutte le fontane pubbliche, Savris è alla ricerca di nuove sorgenti per l'acqua potabile. Con la dichiarazione dello stato di emergenza sono in arrivo in Friuli Venezia Giulia 4 milioni e 200 mila euro per fronteggiare la carenza d'acqua. Verranno tutti spesi sul sistema degli acquedotti, selezionando un quarto degli oltre 120 possibili interventi proposti dalla Regione a Roma. 3 esempi concreti forniti dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli Centrale, uno dei soggetti attuatori. L'abbassamento delle pompe per aggiungere acqua più in profondità, ora che la falda è molto bassa, in un pozzo di emergenza di Pagnacco, che andrebbe poi dotato di filtri a carboni attivi. Oppure l'aumento del parco autobotti. Oppure ancora la riattivazione di un pozzo esistente a Udine. Mancano le autorizzazioni per ottenere più potenza elettrica e fare passare dei cavi da un terreno. La struttura commissariale d'emergenza, in questo caso, accelererebbe l'iter autorizzativo. Gli oltre 4 milioni di euro stanziati dal governo non sono destinati ai consorzi di bonifica per le irrigazioni. La situazione più seria riguarda oltre 5.000 aziende agricole che dipendono dalle acque del Meduna. Il consorzio Cellina Meduna è stato costretto a dimezzare gli orari di bagnatura, ma da metà luglio le colture raggiungono il picco massimo di richiesta idrica. Servirà uno studio idrogeologico specifico, con tempi più lunghi dell'emergenza contingente, per trovare una nuova sorgente di alimentazione dell'acqua a Sauris, una delle località più in sofferenza. La sorgente principale, di falda, che alimenta tutte le frazioni, non ce la fa più perché è troppo bassa. Si ricorre alle altre due secondarie di superficie, ma quando piove, dai rubinetti esce acqua torbida. Un centinaio di chilometri più a sud, a Udine, la giunta comunale ha deciso di chiudere nei prossimi giorni tutte le fontane pubbliche, ad eccezione di una a ricircolo interno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E in particolare il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha firmato un'ordinanza rivolta a tutti i cittadini per un uso corretto, razionale e parsimonioso della risorsa idrica e in particolare dell'acqua potabile. Fra i divieti previsti, il divieto di prelievo di acqua per l'annaffiatura di giardini e prati, per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali nelle ore diurne, per il lavaggio di veicoli privati, esclusi gli impianti di autolavaggio, ma anche il divieto di riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, escluse fontane naturalistiche e specchi d'acqua con fauna e flora. L'ordinanza ha decorrenza immediata e resterà in vigore fino al termine della criticità. Eventuali violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Polizia locale e protezione civile sono incaricate della vigilanza. Torniamo sui temi della crisi ambientale che per certi versi sta alla base anche del disastro della Marmolada con il cedimento del ghiacciaio. Il dissesto geologico del territorio e delle montagne è causato anche dallo scioglimento dei ghiacciai sotterranei. Montagne di ghiaccio spariscono ma non ce ne accorgiamo perché tutto avviene al loro interno. Ma gli effetti ci sono, voragini improvvise, cedimenti dei fianchi dei rilievi, fenomeni avvenuti anche nella nostra regione, come ci dice il geologo e speleologo Andrea Mocchiuti. Sia nelle Dolomiti, nelle vicine Dolomiti, ma anche appunto sulle nostre montagne, soprattutto sulle pareti a nord, ci sono stati dei recenti distacchi legati proprio allo scioglimento del ghiaccio interno alle montagne, ai cambiamenti anche di stato, di tensione all'interno delle rocce dovute proprio al cambiamento della temperatura. Quindi le nostre montagne anche al loro interno hanno del ghiaccio, sono come degli enormi frigoriferi, o perlomeno erano degli enormi frigoriferi, tant'è che questo ghiaccio sta sparendo. Si trasforma in acqua e quest'acqua poi di fatto deve uscire dal sistema e molte volte, soprattutto sulle pareti a nord, come è successo ad esempio su Cima 11, come è successo anche in altre situazioni sul Montasio, si possono creare dei distacchi importanti, dei crolli importanti che poi modificano anche la morfologia della nostra regione. La siccità ha modificato le falde, un fenomeno che ha provocato ad esempio il cedimento del terreno a Raveo. Questo è il punto, dopo la siccità arrivano le precipitazioni però. Sì, appunto, in questo caso questi fenomeni sono dovuti proprio anche alla variazione molto potente della falda che si è abbassata moltissimo e dopo tanti mesi di siccità dobbiamo aspettarci anche delle piogge e queste piogge potrebbero essere anche molto intense. Per cui sarebbe bene che tutte le persone, i cittadini, anche i singoli cittadini, rimettano in funzione o mantengano tutta quella che è la rete drenante che abbiamo in Friuli, quindi i canali, i piccoli fossi. È un'azione che possiamo fare tutti nel piccolo delle nostre case, come poi anche gli interventi più importanti sui fiumi che possono essere fatti chiaramente dagli enti pubblici. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. È tornata alla normalità la situazione a Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari dopo i blackout che hanno colpito a intermittenza i tre comuni fino al tardo pomeriggio di ieri, provocando notevoli disagi alla popolazione. Nel corso della nottata sono terminate tutte le riparazioni sulle quattro linee in media tensione ed Enel ha dichiarato poco fa la sindaca di Monfalcone, Anna Cisint, Enel mi ha appena comunicato che tutte le utenze sono rimaste allacciate. Ieri sera sono arrivate a Monfalcone anche due power station, cioè due generatori di corrente di grossa taglia da utilizzare in caso di eventuali nuovi disservizi. E questo pomeriggio il responsabile Enel per l'Italia, Riccardo Semenzato, sarà a Monfalcone per un incontro con la sindaca Cisinte. I disagi sono stati causati dal danneggiamento di una delle quattro linee interrate di media tensione, forse per le alte temperature e l'elevata umidità. Le altre tre linee si sarebbero sovraccaricate per compensare la linea guasta, andando a loro volta in tilt. Enel, scusandosi con la clientela, ha parlato di un evento eccezionale, in quanto sono andate fuori servizio anche linee che possono controalimentare i clienti in caso di guasto alle linee alimentanti. Ma sentiamo il racconto della giornata di ieri. Semafori spenti, locali al buio, frigoriferi KO. Un guasto a quattro linee interrate dell'Enel in media tensione ha bloccato il flusso elettrico su 52 centraline territoriali di Monfalcone, lasciando circa 9.000 utenze senza energia. Le prime avvisaglie del blackout la notte dalle 23 all'1, poi al mattino dalle 9.30 alle 13.10, quando una delle quattro linee tornava in funzione, alimentando in parte anche le altre. Alle 15.38 nuovo guasto e nuova interruzione, sempre sullo stesso bacino. Le attività commerciali come la mia comporta un danno enorme, perché tutta la parte frigo e la parte soprattutto congelata è da buttare. Abbiamo dovuto buttare via sicuramente diverse vaschette di gelato e non ho ancora il coraggio di andare a vedere quelle di stamattina. Abbiamo buttato via tutta la merce fresca, praticamente dalla gastronomia, dai latticini ai formaggi. Ho dovuto anche mandare via la gente oggi perché, appunto, non essendo corrente, non si poteva pesare la frutta e praticamente una giornata di lavoro persa. Impegnate tutte le squadre della polizia locale sugli incroci nevralgici. Nessun problema all'ospedale San Polo, che ha attivato i generatori, come anche la casa di riposo comunale. Pure la Fincantieri non ha subito interruzioni perché è alimentata da linee elettriche dedicate. Il sindaco di Monfalcone, Anna Cisint. Una città bloccata. La motivazione che ci ha dato Enel è che queste quattro linee interrate sono state guastate a causa del grande caldo. Mi sembra che nel 2022 sia una motivazione assolutamente troppo banale e non possa essere accettata. Sono danni economici e anche la preoccupazione verso determinate fasce deboli. Abbiamo messo a disposizione la protezione civile e ho dato la disponibilità, la mail mia di sindaco, a fare da interfaccia con Enel, perché riteniamo che quanto è previsto dalla delibera di Arera per il rimborso di questi danni possa non essere sufficiente alla situazione che è stata creata. A Staranzano invece circa 1.000 utenze sono rimaste senza energia nel quartiere di Villa Raspa. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Poco più di 700 milioni, attanto ammonta il tesoretto accantonato dalla regione per la variazione di bilancio 2022, destinato ad essere però intaccato dalle due emergenze del periodo, quella energetica e quella idrica. È ricco l'assestamento di bilancio appena approdato in Consiglio regionale, 721 milioni, quasi il doppio dello scorso anno, grazie al buon andamento dell'economia nel 2021. Ma in vista di una possibile recessione, la Regione sta comunque accantonando risorse. L'assessore alle finanze, Barbara Zilli. Lo scenario autunnale si prospetta incerto e ovviamente su questo l'amministrazione regionale sta facendo delle valutazioni per cercare di mettere appunto da parte ulteriori risorse al fine di dare una boccata d'ossigeno anche per l'ultima parte dell'anno. La manovra si occupa anche di crisi energetica. 40 milioni andranno a ristorare le circa 50.000 piccole e medie imprese della regione messe in difficoltà dagli aumenti delle bollette. Su questi fondi il Partito Democratico intende vigilare. Sergio Bolzonello. Su questo chiediamo parametri molto, molto chiari, non cifre messe lì a caso. Alcune aziende ne hanno bisogno, altre non ne hanno bisogno. Ecco, quindi chiediamo che ci sia un regolamento e che quel regolamento passi anche al vaglio della seconda commissione. Risorse anche per l'agricoltura, 26 milioni di contributi per investimenti, al via poi una campagna di installazione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà della regione per un totale di 9 milioni di euro. Per quanto riguarda l'edilizia agevolata, cioè l'acquisto, la nuova costruzione e il recupero della prima casa, con 45 milioni si vanno a coprire tutte le domande arrivate entro il 31 dicembre 2021. Il Movimento 5 Stelle sperava in un taglio dell'IRAP. Cristian Sergo. A fronte di una disposizione di somme così rilevante, ci dovrebbe essere anche un'attenzione particolare a quella che è la riduzione della pressione fiscale, tagliare le tasse, cosa che tutti quanti si ricordano solo in campagna elettorale ma non agli atti pratici. Per Progetto FVG, forza di maggioranza, le risorse sono frutto anche di una gestione oculata del bilancio. Mauro Di Bert. L'intento di soddisfare il bisogno, insomma, di una collettività che in questo momento post pandemia ha necessità di interventi concreti con delle poste consistenti ed appunto questo sta avvenendo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Slitta di 2 anni il finanziamento regionale per il Parco del Mare di Trieste, il progetto voluto dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia che prevede la costruzione di una nuova struttura nella zona della Lanterna. Si allungano dunque i tempi per il parco che nelle intenzioni dei proponenti doveva essere pronto nel 2024. La Regione aveva impegnato 8 milioni di cui 1,5 da devolvere già quest'anno. Tutto è stato spostato di 2 anni su richiesta della stessa Camera di Commercio. Per il presidente Antonio Paoletti la pandemia ha rallentato l'iter e comunque è meglio attendere che i prezzi nell'edilizia si abbassino. In questo momento i costi non permetterebbero di rientrare nei 44 milioni inizialmente previsti per realizzare il parco, spiega Paoletti. Gli altri fondi arriverebbero da investitori privati e dalla stessa Camera di Commercio. Secondo le previsioni la struttura potrà raggiungere i 600.000 visitatori l'anno. L'Assemblea della Società Autostrade Alto Adriatico ha approvato l'aggiornamento dell'accordo di cooperazione, che contiene anche la disciplina del rapporto concessorio e del piano economico finanziario. Ai circa 600 dipendenti viene garantito il mantenimento del posto di lavoro, la durata della concessione è fissata a 30 anni e gli investimenti previsti sono di 1 miliardo di euro. L'ha spiegato l'amministratore unico della Società Autostrade Alto Adriatico, Anna Di Pasquale, durante l'Assemblea, ribadendo come un altro importantissimo tassello sia stato inserito nel complesso puzzle che consentirà alla società di subentrare nella concessione autostradale attualmente in capo ad Autovie Venete. Si tratta del primo progetto in Italia che consentirà l'affidamento della concessione ad una società totalmente pubblica, partecipata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da quella del Veneto. La concessione trentennale sulla A4 era l'obiettivo fondamentale di tutta l'operazione per conservare in capo alla Regione la governance e i frutti di un'arteria strategica. Lo afferma la presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, già commissario straordinario per la A4. Nell'interesse delle Friuli Venezia Giulia, continua Serracchiani, confido si potrà compiere finalmente il passaggio alla NewCo tutta pubblica che ha mosso i primi passi nel 2016. Dopo lentezze e contraddizioni, auspico si potrà considerare chiusa anche la questione del riscatto delle azioni di Autovie posseduto da soci privati che possano proseguire i lavori già programmati per la terza corsia. Al Ministero dello Sviluppo Economico si è riunito il tavolo in merito alla crisi Flex di Trieste, tavolo che ha visto la presenza, oltre di sindacati, anche di Regione Friuli Venezia Giulia, Confindustria e Azienda. Il Ministero dello Sviluppo Economico commenta una nota sindacale congiunta di FIOM CGL, FIM CISL, WILM e USB, ha rappresentato il quadro dell'attività svolta in sinergia con i tecnici di Invitalia e la possibilità di definire un accordo con Nokia Finlandia per un rapporto con la multinazionale in cui il sito di Trieste potrebbe diventare strategico. L'azienda, si legge sempre nella nota, sollecitata dalle parti sociali, ha dichiarato il suo interesse ad approfondire questo tipo di possibilità, senza però voler mai scoprirsi sulla questione degli organici. Per questo motivo, chiude la nota sindacale, vogliamo affermare con chiarezza che il 22 luglio, data del prossimo incontro ministeriale, deve essere visto come un passaggio decisivo per il futuro di Flex. Molto partecipato, soprattutto a Trieste, lo sciopero nazionale proclamato dai tassisti e indetto dalle principali sigle sindacali della categoria, fra cui Uritaxi, Confartigianato Trasporti, CNA Fita e Confcooperative. Astensione iniziata ieri e che durerà fino a oggi. La protesta in particolare verte contro il DDL concorrenza e la liberalizzazione del settore. Il timore è quello che anche sul mercato regionale si affaccino con prepotenza le multinazionali che, secondo i sindacati dei tassisti, non garantirebbero gli stessi standard qualitativi e di sicurezza delle auto bianche. A Trieste il centralino è rimasto attivo per dare priorità alle persone con disabilità o chi deve raggiungere gli ospedali. locali. Analogo servizio garantito anche a Udine, dove sono stati comunque pochi i tassisti che hanno scioperato. Sempre più difficile nel pordenonese trovare un posto negli asili nido. Tra le motivazioni il fatto che sempre più nonni lavorano e che i genitori hanno rivalutato il servizio educativo offerto dal nido. Trovare un posto all'asilo nido per i propri figli è sempre più difficile. A Pordenone le due strutture comunali, il Germoglio e l'Aquilone, sono al completo. 44 bambini inizieranno la frequenza a partire da settembre, ma le domande ricevute sono state 145. Se una trentina è in graduatoria per il contributo per i nidi accreditati, 68 famiglie rimangono in lista d'attesa, cioè ad oggi non hanno posto in alcuna struttura. Al comunale di Porcia, su un totale di 49 domande, la metà non ha trovato posto. Le richieste sono molto aumentate, così il divario tra disponibilità e ricettività, spiegano dal Giro Tondo. Da un lato sempre più nonni lavorano, dall'altro i genitori hanno rivalutato il servizio educativo offerto dal nido. Al Melarancia le tre strutture di Porcia, 80 posti compresa l'infanzia, Maniago 30 posti e Pordenone 50, sono già tutte in overbooking con liste d'attesa di decine di bambini. Consigliamo di informarsi con molto anticipo, anche in gravidanza, dicono dalla struttura. Molti genitori fanno preiscrizioni a più nidi per trovare un posto. Ci sono poi soluzioni come gli asili familiari. Anche qui le richieste sono altissime, i posti disponibili pochi e c'è chi ha già aperto le iscrizioni per l'anno 2023-2024. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Sentenza di assoluzione con formula piena per il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, nel processo di Treviso per un presunto giro di affari illeciti con l'ex capitano delle Fiamme Gialle Giovanni Grassi e altri imputati. Coinvolto anche Giorgio Costacurta, rappresentante legale di un'azienda di comunicazioni fondata da Agrusti. Agrusti è stato assolto perché il fatto non sussiste in merito all'ipotesi di reato di corruzione e per non avere commesso reati fiscali. Stessa decisione per Giorgio Costacurta. Condanna a 4 anni e 6 mesi invece per l'ex capitano Giovanni Grassi, che secondo l'accusa avrebbe fornito informazioni riservate in cambio di denari e favori, pene più lievi per tutti gli altri. Il caso di Raffaele Rinaldi, triestino di 49 anni, scomparso lo scorso 22 maggio nella zona di Cogno in Val d'Aosta, dove si era recato per un'escursione. La famiglia ha organizzato a proprie spese una perlustrazione per il 13 luglio, ha scritto fratello Cristiano, con un post di Facebook. Si tratterà di una spedizione di una decina di volontari esperti per setacciare una zona fuori sentiero. L'itinerario che verrà percorso seguirà il sentiero tracciato 16 in direzione Punta Feniglia, una zona dove Rinaldi potrebbe essersi perso oppure essere scivolato, essere stato colpito da un malore. E per i prossimi giorni è previsto anche che riprendano le ricerche del soccorso alpino con droni ed elicottero per perlustrare di nuovo altre parti impervie della montagna dove potrebbe essere caduto Rinaldi. I dati della pandemia ieri in Friuli Venezia Giulia: su 3.530 tamponi molecolari rilevati 292 nuovi contagi, sono oltre 7.211 i test rapidi antigenici realizzati, invece da questi sono stati rilevati 2.315 casi, quindi i casi di positività sono stati complessivamente 2.607. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, i pazienti in altri reparti sono 165. Si registrano i decessi di 5 persone, una a Trieste, 3 a Udine, 1 a Gorizia. L'incidenza sui 7 giorni sale ancora e arriva a 891 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Secondo il report sull'ambiente urbano del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Trieste è città sostenibile e vivibile, anche se alcuni indicatori mettono a nudo alcune criticità. Trieste, città sostenibile e vivibile. Lo certifica il report sull'ambiente urbano del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, che ha fatto il punto sulla transizione verde e sulla resilienza dei capoluoghi regionali e delle province autonome. Per la città giuliana il quadro è caratterizzato da molti miglioramenti in alcuni ambiti e poche situazioni di criticità. Il primo dato positivo è la qualità dell'aria. Tra il 2013 e il 2020 la concentrazione di PM10 registra una diminuzione. Per quanto riguarda il traffico, cala l'incidentalità e diminuiscono i veicoli inquinanti in circolazione, mentre crescono del 28% rispetto al 2008 le aree pedonali e anche le piste ciclabili, più 21,3% sul 2011, con quasi 28 km ogni 100 km quadrati, ma siamo lontanissimi dalle città più ciclabili, Torino, Milano e Bolzano. Trieste è poi la terza città in Italia per densità di verde pubblico urbano, col 14,6%, dietro a Trento, Regina Green col 30% e Torino. Benino il contrasto alle perdite idriche, che calano del 4,6%, ma il clima cambia e mai come quest'estate ce ne accorgiamo. La città giuliana è una di quelle dove crescono di più le ondate di calore, 22 giorni di allerta annui. Infine il consumo di suolo. Dopo Aosta, Genova e Trento, Trieste è il quarto capoluogo regionale meno virtuoso. Il dato è pari al 32%, ma solo negli ultimi due anni ha fatto un balzo in avanti del 12%. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il coordinatore del comitato Novo Via, William Starz, ha spedito una richiesta di incontro al sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, per presentare e discutere una proposta alternativa al Novo Via che possa garantire per lotti successivi non solo la valorizzazione del tram di Opicina, ma soprattutto due nuove linee tramviarie da Barcola a Campo Marzio e da Piazza Libertà a Borgo San Sergio, per una nuova mobilità che integri centro e rioni periferici con benefici per tutta la città. Nella lettera si sottolinea che dopo il pronunciamento del Ministero della Transizione Ecologica sulla non compatibilità degli impianti a fune con le zone a protezione speciale come il Bosco Bovedo e le numerose prescrizioni di Regione, ARPA e Sovrintendenza, la preoccupazione del Comitato del Coordinamento è che Trieste perda i 48 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ottenuti per la misura Sviluppo Trasporto Rapido di Massa. Dal selciato in porfido della centrale via Cortazis, nel cuore di Udine, spiccheranno alcune file di mattonelle rosse illuminate che saranno sistemate in occasione del rifacimento della pavimentazione già programmato dall'amministrazione comunale. Un'installazione permanente che immaginiamo come monito per sensibilizzare la cittadinanza e i visitatori della capitale del Friuli sulla violenza contro le donne, argomento purtroppo di grande attualità, ha spiegato il sindaco Fontanini. Nella stessa seduta di giunta comunale, l'esecutivo ha approvato la realizzazione di 60 stalli rosa per donne in stato di gravidanza e genitori con figli di età non superiore ai 2 anni. Wärtsilä ha annunciato di aver firmato un contratto con l'azienda italiana CMC Marine per la distribuzione della propria produzione di idrogetti di medie dimensioni. CMC sarà responsabile di vendita, distribuzione, installazione e assistenza post vendita dei water jet Wärtsilä in Italia, Malta e Monaco. CMC è una realtà già presente nei mercati con propria gamma di sofisticati sistemi di stabilizzazione e di propulsione, che conta di operare nel settore delle navi commerciali ad alta velocità, in imbarcazioni da lavoro, yacht veloci e traghetti ad alta velocità. Nell'ambito del piano di potenziamento predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sono stati assegnati alla Questura di Pordenone 10 nuovi agenti della Polizia di Stato. Del nuovo personale, 5 effettivi sono stati appena nominati dopo aver prestato giuramento nei giorni scorsi nelle scuole di polizia dove hanno frequentato il corso di formazione. Gli altri 5 agenti provengono invece da altre province dove hanno prestato servizio in diversificati uffici e settori. Una notizia legata allo sport. Nella sala Bobby Basland di Palazzo Gopcevic, ieri cerimonia di premiazione della pallanuoto a Trieste, guidata dal presidente Enrico Summer, che ha visto la formazione maschile di E1 ottenere un brillante 4º posto, che le garantirà per la prima volta l'accesso a una Coppa Europea, ma anche la formazione di E1 femminile, reduce da un buon campionato, conclusosi con la salvezza. La prima targa assegnata all'allenatrice delle orchette, Ilaria Colautti, artefice della rinascita della pallanuoto femminile a Trieste, la seconda per le orchette per la determinazione con cui hanno affrontato il campionato ottenendo la riconferma in A1, la terza per la pallanuoto Trieste per aver raggiunto la prima storica qualificazione alle coppe europee. Le 7:46 e 55 secondi, siamo alla rassegna stampa, cominciamo dal piccolo di Trieste. Il Parco del Mare slitta per l'aumento dei prezzi, è il titolo di apertura. Tagliati i fondi regionali 2022-2023, Paoletti, presidente Camera di Commercio, solo posticipati, scelta condivisa. Sotto la fotonotizia centrale, sul set hollywoodiano a Trieste, la diva Charlize Theron in scena sul Mola Audace. Si è conclusa ieri la due giorni di riprese triestine del film The Old Guard 2. In prima pagina spazio alla cronaca nazionale con la tragedia sulla Marmolada e internazionale con l'incontro fra Draghi ed Erdogan, la visita di Mattarella in Mozambico e poi la lettera di 10 paesi europei in gran parte dell'Europa centro-orientale, fra cui la Slovenia, a favore del nucleare. Nel colonnino di destra tre notizie richiamate in prima pagina, vertenza Flex, da Nokia a Telecom il ministero in campo. Poi l'audizione sul tram di Opicina nel mirino per i ritardi l'ex direttore dei lavori, scuole, la storica piscina dell'Istituto Da Vinci vuota da 30 anni. In basso c'è il richiamo a una storia, i 101 anni di Maria che vive da sola e sogna il sindaco. Il compleanno di Maria Millock De Marchi, che oggi festeggerà appunto i 101 anni con i suoi figli, una grinta invidiabile e un desiderio, ricevere gli auguri del sindaco. Le accuse agli alpini, le molestie alla Dunata, chiesta l'archiviazione. Apre così oggi la prima pagina del Messaggero Veneto di Udine con la Procura della Repubblica di Rimini che sottolinea come non sia stato possibile identificare i presunti autori dei fatti descritti nell'unica denuncia presentata in merito. Sotto una grande fotonotizia dedicata al Jova Beach Party di Lignano che, secondo il quotidiano di Viale Palmanova, avrebbe creato nella località balneare un indotto di 12 milioni. Nel colonnino di richiami di cronaca la perdita di gasolio nelle acque del Corno a San Giorgio di Nogaro che avrebbe provocato una chiazza di 2 chilometri. Nella prima pagina dell'inserto udinese del Gazzettino invece in evidenza come la regione nell'ambito dell'emergenza Covid voglia mettere in atto una stretta sui ricoveri in ospedali ritenuti impropri. Sul versante della politica locale l'annuncio della nuova giunta comunale di Codroipo che vedrà coinvolti 7 assessori con un esterno. Passiamo al piccolo di Gorizia e Monfalcone, il grande blackout, il titolo della fotonotizia di apertura e poi all'interno il servizio di Tiziana Carpinelli che racconta la giornata di disagi a Monfalcone ma anche a Staranzano e Ronchi. La notizia centrale in prima pagina è invece tutta su Gorizia, metà della giunta rinnovata per lo Ziberna II. 5 volti nuovi nella squadra di 10 assessori, unico dubbio su Bellan, causa di impegni di lavoro. È praticamente definita quindi la nuova squadra di governo. In prima pagina ci sono anche 2 richiami a una notizia di cronaca nera, di cronaca giudiziaria e una di bianca. Coltivavano 760 piante di papavero da oppio, denunciati, e poi la notizia della demolizione dell'ex manifattura tabacchi a Gorizia, al suo posto sorgerà un supermercato Famila. In fondo, cambio al vertice dell'Università della Terza Età, l'addio della presidente Maria Marsic Mancini, sì alle nuove leve. L'apertura della prima pagina dell'inserto del Gazzettino di Pordenone si occupa ancora dei temi della siccità e dello stanziamento complessivo tra Stato e Regione di una 12 milioni per combatterla. In argomento meteo il fatto che le piogge di ieri abbiano solo sfiorato il pordenonese. Sotto la notizia della doppia soluzione per il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agurusti e un'altra notizia di giudiziaria relativa al fallimento degli istituti Cavalli e Conti e Einaudi con una soluzione. Cronaca a piedi pagina con l'arresto di un collezionista d'armi per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Nella colonna di destra, alla voce sanità, l'ipotesi di tagliare altri servizi a Pordenone e sotto il costo per il mantenimento del verde a Sacile, 215.000 euro. Sempre a piedi pagina tutte le date della stagione del calcio dilettanti e le scuse dei vertici di Igea con i cittadini per averli costretti a lunghe code per il ritiro del kit della differenziata. Alcuni appuntamenti per oggi. Il futuro viene dalla terra e il titolo dell'incontro in programma alle 17.45 a Villa Russizza a Capriva del Friuli con Carlo Petrini, che è il presidente nazionale di Slow Food, e Monsignor Carlo Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana. I due dialogheranno sul tema della cultura contadina e del recupero di borghi e terreni agricoli dismessi. L'incontro è organizzato dalla Fondazione Carico con l'associazione Filiera Futura. Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha reso noti i numeri della grande affluenza di visitatori nei musei e nei parchi archeologici statali nel corso della prima domenica al Museo di Luglio, giornata che, come di prassi, ha previsto ingressi gratis nei principali luoghi della cultura. Ottima la performance del Museo Storico del Parco del Castello di Miramare, che si colloca al sesto posto dopo la Galleria dell'Accademia di Firenze, prima della Regia di Caserta, con 4.915 ingressi. Entra nel vivo il calendario dei concerti estivi al Castello di Udine. Stasera sarà protagonista il rapper milanese Ernia, beniamino del pubblico giovanile, che presenta l'unica data in regione del suo Gemelli Tour 2022, uno dei brani di maggior successo, super classico, ha conquistato 6 dischi di platino. Inizio alle 21.30. Sesta giornata del Trieste Short Film Festival. Al Teatro Miele sono in programma dalle 17 i corti della sezione per adolescenti dagli 11 ai 15 anni e dalle 20 la prima parte del Focus Israele. Al Giardino Pubblico alle 21.15 invece i corti della sezione Mare Metraggio. Stamattina si presenta a Trieste il Centro Studi Musicali in Lingua Slovena del Conservatorio Tartini. L'occasione è il convegno Le istituzioni di alta formazione artistica e musicale fra istanze di autonomia e vincoli centralistici, il delicato rapporto con le diverse comunità linguistiche. E in particolare si parlerà della scelta inclusiva del Conservatorio Tartini di Trieste. Il convegno si terrà alle 10.30 nella Sala Tartini dell'Istituto di Via Ghega. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia era in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'anticipazione del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Voio Fevelin D parlerà di uno dei più importanti progetti del Patto del Collio, il Distretto del Commercio. Alle 11.20 circa andrà in onda la prima puntata della nuova serie Con le mani, con i piedi, con il cuore, che nel corso dell'estate si condurrà a scoprire dove e come il nostro territorio si offre e si arricchisce diventando comunità. I programmi regionali tornano poi alle 13.29 ed era questa la nostra ultima notizia. Collaborato in redazione Valentina Veneruso, per la parte tecnica Paolo Cossano e Tommaso Vinoni. Da Ludovico Fontana e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.